squillo e sto de domandar. Cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Ha rapito la bella Rosina. Il bandito Pepe se l'è presa con sé e stanotte lo vuole sposar. Ma lo squillo di tromba la terra rimbomba una nuvola bianca compar. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo. Arrivano i nostri con in testa il generale e il nobile Pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventolar. Arrivano i nostri giù dai monti del Far West, arrivano dal nord, dal sud, dall'ovest e dall'est e gli spettatori, cin cin cin cian, si levano in piedi e battono le mani. Spara, spara, galoppa, galoppa. Il perfido Pepe, poi con l'ultima palla s'accoppa, gridando mordiole. Ad un gesto cosa scende ognun da cavalchi nel capo e si leva il cappello. Per Rosina si sa, il suo porpa c'era e il paese ritorno si fa. Lo sceriffo ricciandosi un baffo dall'alto castello li vede arrivar. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo, arrivano i nostri con i testi generali. E il nobile Pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello del vento sventolare. Arrivano i nostri giù dai monti del Far West, arrivano dal nord, dal sud, dall'ovest e dall'est. E gli spettatori, cin cin cin cin, si levano in piedi e montano le mani. Maestro, sapete che fa? Vi mandano un rio.